Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Un pochettino di sigla in più, tornando in diretta abbastanza puntuali per questo Last Minute di oggi, giovedì 22 giugno, che vede un appuntamento questa sera all'Istituto Parri alle ore 18:30, un appuntamento con una protagonista che nel cuor mi sta sempre e comunque. Stiamo parlando della grande Donna Summer. Donna Summer che ha avuto importanza per quanto riguarda la disco music, ma non solo, le collaborazioni con Moroder, le collaborazioni con altri artisti, la capacità di portare alla musica anche con un talento ulteriore comunicativo, di cui parleremo al più presto, anzi adesso in diretta telefonica con noi, con Giovanni Savastano, al quale do il buongiorno. Buongiorno, grazie per la levataccia, Giovanni. Buongiorno, grazie a voi, eccoci. già dal titolo, la voce arcobaleno da disco Queen a icona pop. Allora, sono molto contento di portare un po' di Donna Summer all'interno di questa playlist mattutina, tra l'altro. Come verrà presentata questa sera all'Istituto Parri e a che proposito, fra l'altro? A lei la parola. Allora, la presentiamo perché, appunto, avendo fatto questo libro, Andrea Angelini ed io vogliamo celebrare una artista che, come stavi giustamente dicendo tu, non è solo la regina della disco music, ma è diventata un'icona pop, perché ha rivoluzionato veramente il mondo della musica, se si pensa a brani come I Feel Love, che grazie anche alla maestria del nostro italianissimo Giorgio Moroder ha sdoganato l'elettronica nel pop, e da lì sono nati tutti i generi musicali che poi conosciamo dagli anni 80 in poi, con i Depeche Mode, i Backstreet Boys, fino ad arrivare ai Daft Punk. E stasera la presentiamo con la partecipazione di spero tanta gente e avremo Carlo Babando come moderatore e Roberto Lanzarini dell'Istituto Parri che introdurrà la serata, e poi ci sarà anche un prosieguo con delle danze in un locale lì vicino, proprio perché Donna Summer comunque fa venire voglia di ballare, ma non solo, perché la sua musica e la sua voce sono molto poliedriche e ecco, la sento in sottofondo. ti ho interrotto per bene. Il brano che ha fatto iniziare tutto, Love Love You Baby, che ha fatto scandalo anche nell'Italia degli anni 70 e non solo nell'Italia, ma è un brano ad alta tensione erotica che ha veramente aperto un mondo nel 1975, stiamo pensando, quindi in tempi veramente che sembrano arcaici, ma già all'epoca rivoluzionava la musica come pochi. E pensa che addirittura sono stati contati i gemiti, adesso non ricordo quanti, ma sono stati, anche perché per 22, me 20, 22. Ok, grazie. No, è che per me è più la bellezza della scrittura musicale di questo soul, electro soul, di un coinvolgimento e anche di un grande potenziale di, io definirei, sensualità, perché esatto. È ben precisa la parola, rispetto a qualcosa di più volgarmente esplicito che troviamo, scusa, non vorrei apparire bacchettone ai giorni nostri. No, ma è vero, perché questa è sensualità, raffinatissima, esatto. Tra l'altro. Molto raffinata, esatto, questo noi lo ribadiamo nel libro, non c'era assolutamente nessun tipo di volgarità. No. Che magari possiamo ravvisare un po' nella musica di oggi in alcune ramificazioni. Lì c'era, tra l'altro, questo brano era nato per scherzo, lo diciamo nel primo capitolo, sì, del libro, che abbiamo intitolato Una telefonata della notte, e Donna Summer non aveva nessuna intenzione di incarnare la dea dell'Eros, ma lo ha fatto molto bene, perché Lei, come diceva lei stessa, era un'attrice che cantava, cioè cercava di entrare nel personaggio della canzone, di ogni canzone, e quindi capire che tipo di psicologia aveva quel personaggio. Per questo brano lei in particolare si era ispirata alla sensualità di Marilyn Monroe, quindi assolutamente nessun tipo di malizia, anzi una sessualità molto elegante e raffinata. Sì, oltretutto ci sono stati gli inevitabili paragoni con Jane Birkin e quant'altro. Ah, sì. Insomma, tante critiche, ma anche tanto gusto musicale. Io sono nato, si può dire, musicalmente con la disco music, anche se giovanissimo, classe 1969, da bambino cercavo sempre le cassette dei più grandi per ascoltare Donna Summer, per ascoltare i Bee Gees, per ascoltare tutte queste sonorità che sono state un po' la mia partenza nella musica, e indubbiamente sentire questi approfondimenti mi manda in solluchero, perché saperne di più è sempre cosa buona e giusta. Perché la disco music è stata così messa in secondo piano? Una domanda un po' personale, ecco. Ma perché era una musica che univa appunto l'erotismo, la sensualità, la fisicità al divertimento, e in qualche modo sembrava negli anni 70, soprattutto in Italia, con gli scontri ideologici che conosciamo, sembrava che il divertimento fosse un peccato, e quindi sia dal punto di vista dell'area cattolica che dal punto di vista dell'area cattopopulista si diceva che se non si ascoltava il rock, i cantautori, non era musica vera. E noi, nell'altro libro che abbiamo scritto, Andrea Angeli, Buffalini e Dio, sulla storia della disco music, abbiamo sostenuto proprio il contrario, abbiamo cercato di dimostrare, anche quello era un bel volumone di 500 pagine, che la disco music ha una storia, delle radici, non nasce dal nulla, e quindi che non è detto che un genere che si basa sulla sensualità, sul ritmo e quindi sul ballo anche, esatto, sul ballo, sì, valga meno degli altri, che invece, con tutto il rispetto, certo, hanno la loro parte di impegno. Ma la disco music poi ha avuto anche la sua parte di impegno, perché è stata la colonna sonora della liberazione dell'individuo, la liberazione sessuale negli anni 70 per le minoranze, per le donne, per gli omosessuali, e Donna Summer in questo senso ha sdoganato tantissime tendenze dell'epoca. E se si pensa, ecco, che nell'album, per esempio, Bad Girls del 79, lei compare in copertina nei panni di una prostituta, perché sì, parla di queste cattive ragazze, e quindi anche nella disco music c'era un contenuto sociale e un impegno. Sì, quindi, poi, certo, indubbiamente dei percorsi che, per quanto riguarda la storicità, vanno da Sam Cooke alla Motown, all'arrivo di Marvin Gaye, la trasformazione, esatto, e poi il Phil di Soul, Philadelphia Soul, che ha, fatto, Sound, esatto, che sì, ha portato l'apertura dei grandi club, e tutto ciò poi con la Soul Society Record arrivare ufficialmente alla disco music come fenomeno mondiale. E insomma, nella black music direi che la parte, per quanto riguarda poi l'arrivo nei club e nei locali, con la disco music un aspetto fondamentale vi è, e come, in maniera trasversale, dal talento all'arte e dall'impegno sociale. E quindi bravi, lo dico perché, grazie, bravi, ne sono ben contento, anche perché purtroppo io a distanza saluto Carlo Babando, che è il mio dirimpettaio, il mio vicino di casa, abbiamo già fatto delle presentazioni assieme. Insieme, ma tu stasera sì, ci sarai? No? Io sono a fare un DJ set di funky jazz. Quindi, quindi siamo sempre lì nell'area. Sì, sì, assolutamente, sì, sempre e comunque. Ed è per quello che un po' mi piange il cuore, perché Donna Summer è stato un mio motivo di crescita, di approfondimento e quant'altro. Io però invito tutte e tutti all'Istituto Parri in via Sant'Isaia 20. Esatto, dimmi, cosa volete aggiungere? alle 18.30 facciamo la presentazione di un libro, non lo dico perché lo abbiamo scritto noi, ma prima di tutto la prima monografia italiana ed europea di Donna Summer, e poi è un libro che ha la sua consistenza anche dal punto di vista iconografico, perché ha una bellissima copertina cartonata con lei seduta sulla luna in quella iconica immagine dell'album Four Seasons of Love del 76. E poi abbiamo messo dentro ben più di 500 foto, avendo il contributo di fotografi dell'epoca che abbiamo contattato e che ci hanno dato delle foto esclusive e inedite. Come inedita, d'altra parte, la prefazione, questo lo voglio dire, di Pete Bellotti, che insieme a Giorgio Moroder è stato il secondo produttore di Donna Summer, che ha dato il via a tante canzoni come Hot Stuff, per esempio, e quindi abbiamo avuto questa sua testimonianza unica, di cui siamo molto contenti. Aggiungiamo che dalle 21 disco 70 con il set di Livio Pagani presso il Gallery 16 in via Nazario Sauro 16 a una bella, assolutamente. Una bella serata di disco. Si prospetta una bella serata, dai. Bene, bene, grazie di cuore per questa grazie anticipazione. A te, veramente. Manda un abbraccio a Carlo Babando, che grande appassionato, ci ha ritrovati vicini di casa, ecco, pensa a te, ironia della sorte. Ogni tanto da parte a parte del pianerottolo guardiamo le nostre collezioni di dischi, adesso avremo modo. Vi scambiate sì, gli LP i titoli, certo. Grazie, io ti grazie a te tantissimo e una buona giornata. Beh, appuntamento a questa sera, ci sarà un'altra occasione, dai. E dai, speriamo di sì, dai, così ci vediamo ci di persona e certo. Poi facciamo il bis, senz'altro. Donna Summer, la voce arcobaleno all'Istituto Parri questa sera. Io ti ringrazio e ti auguro una buona giornata. Ciao Giovanni. Ciao. Un salutone, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Sì, non stiamo a raccontarcela, questa è musica per imparare a stare al mondo, la diciamo come va detta. Tanto che il vinile di Donna Summer con Walk Away sta girando qua al mio fianco, grande emozione questa sera, Istituto Parri alle ore 18.30 in via Sant'Isaia 20, l'introduzione di Roberto Lanzarini, che saluto, il DJ set di Livio Pagani presso il Gallery 16 dalle 21 a seguire, il dialogo con Carlo Babando che troverà gli autori Andrea Angeli Buffalini e Giovanni Savastano, che abbiamo conosciuto in diretta telefonica per Donna Summer, la voce arcobaleno da disco Queen a icona pop. Io vi lascio con On the Radio momentaneamente. No, non pensate di esservi liberati del Breakfast Club, anche perché andiamo in mostra, andiamo a Palazzo Reale per conoscere la libertà, l'impegno di un grandissimo militante, fotografo, fotoreporter, collaboratore con l'Unità e l'Avanti già dal dopoguerra, partigiano per quanto riguarda la liberazione. E vi presenteremo questo fotografo, questo artista per meglio dire. Avremo la curatrice con la quale ho avuto dialogo di presentazione. Ho pensato che la musica di Gil Scott Heron sarebbe per questi scatti il commento ideale, e tra pochissimo quindi andiamo in mostra. Senti qua che roba, senti che roba.